Il vescovo Ambrogio mi sgomenta. Occhi marroni, sanguigni e lacrimosi, stempiato, con capelli corti e bianchi, barba rada, a piccoli cespugli, faccia angolosa e butterata, grandi orecchie a sventola e labbra gonfie, rosse, tumide, sporgenti. Ma poi si mette a parlare e si ode la sua voce chiara, vibrante, armoniosa. È una voce così musicale che rende bello ogni concetto, frase o parola. Ascoltandola si resta incantati. Mancano pochi giorni a Natale. Fuori il buio della gelida sera invernale ha già inghiottito Milano. Ci troviamo all'interno della cattedrale. Ambrogio ha insistito perché io mi allontanassi per restare solo con i pazzi, ma negli occhi della mia maestra ho colto un guizzo di paura e così mi sono rifiutato, dicendogli che se anche lui voleva sentirsi tranquillo, poteva avvicinare a noi alcuni dei numerosi monaci che stazionavano vicino al presbiterio o all'ingresso. Mi ha gettato un'occhiata fredda, subito diluita in uno sguardo bonario e indulgente, e ha ripreso a parlare con Ipazia, che non lo abbandona mai con gli occhi e che si stringe nel mantello nero, infreddolita a morte per la terribile umidità di cui è impregnata la cattedrale. Mi dispiace per tuo fratello. La vita umana è un bene così prezioso che non può essere sacrificata in una competizione sportiva. È stupido. E scrolla il capo. Le Olimpiadi non sono affatto stupide, vescovo. Le Olimpiadi hanno la stessa età di Roma e hanno rappresentato un momento di tregua fra le guerre. Popoli in lotta ogni 4 anni si sono fermati per una settimana, si sono incontrati attorno ai loro atleti, hanno pranzato attorno allo stesso tavolo, sacrificando agli dèi davanti allo stesso altare. Hanno potuto riflettere, incontrarsi, capirsi. Tutto sono le Olimpiadi, ma non stupide. Mio fratello ha dato la vita per onorare i nostri dèi, per onorare lo stendardo di Alessandria. È stato uno stupido solo perché ha scelto una corsa che non si addiceva al suo fisico, solo per questo. E si morde le labbra emozionata. Io cammino accanto a loro cercando di essere quanto più discreto possibile, sforzandomi di non far sentire i miei passi. Ambrogio si ferma, fissa Ipazia, con ombre lacrimevoli negli occhi. Nei miei 54 anni di vita mai mi è accaduto di assistere alla visione di una creatura come te. La tua figura è bella oltre ogni dire, e dalla passione che odo nella tua voce, la tua anima deve essere come il tuo volto e i tuoi occhi. Ipazia lo fissa, incredula, schiude le labbra, non sa cosa dire, poi esplode. Ma è possibile che voi cristiani non pensiate ad altro? Corpo e anima, amore carnale o amore religioso? Quello che c'è qui dentro proprio non vi interessa? E con piglio imperioso picchietta un dito sul suo capo. In verità pensavo che tu fossi diverso, Ambrogio. Il vescovo serra con un gesto di fastidio le labbra tumide, respira fondo, poi la sua espressione pare ingentilirsi. Certo che mi interessa, l'importante è al servizio di chi metterla. La voce di Ambrogio rende il suo concetto melodioso. Ho scritto un trattato in cui esalto l'ideale della verginità, in cui affido alla ragione di una creatura come te il compito di combattere le passioni e di distaccarsi dal mondo in cui vive. Ipazia, metteresti la tua ragione al servizio di questa causa? La mia maestra scuote, incredula, il capo. Allora Nicomaco Flaviano non è un sognatore né uno spavaldo, quando dice che un giorno costringerà i tuoi monaci ad arruolarsi e trasformerà le tue basiliche in scuderie. E continua a scrollare il bel capo, a fissare il vescovo. Voi cristiani, voi predicatori, intendo, e non creature pure come Shalim. E si volge verso di me, protendendo una mano, indicandomi al vescovo. Voi capi, teologi e predicatori, avete un problema. State demonizzando l'evento più bello della vita, che è l'amore carnale tra due creature. E si avvolge nel mantello lottando contro l'umidità della cattedrale. Comunque, vescovo, se proprio ci tieni a saperlo, ebbene sì, ho 23 anni e sono ancora una Virgo e probabilmente morirò in questa condizione, ma non per offrire la mia verginità a Dio, né al tuo Dio né ai miei dèi, ma semplicemente perché così la mia ragione vuole, perché io voglio dedicarmi completamente alla mia missione. Lo studio del mondo che mi circonda, del mondo che ho dentro di me, e voglio mettere i risultati di queste mie ricerche a servizio della gente. Della gente, Ambrogio. delle genti ellene, cristiane, ebree, genti di tutte le razze e religioni del mondo intero. E per fare tutto questo devo rinunciare a qualcosa. Devo rinunciare ad avere una famiglia, un compagno e un figlio. Devo, voglio che sia così. E lo fissa col volto infiammato. Ambrogio si è arrestato sotto il vento di quegli occhi che fondono una passione incontenibile. E così il nobile Nicomaco Flaviano trasformerà questa cattedrale in una scuderia? Povero prefetto sognatore, non ha ancora capito che il destino dell'impero romano si è già deciso qui, qui, Ipazia, proprio dove stiamo tu ed io in questo momento. 3 anni fa, esattamente 3 anni fa, la sera del Natale di 3 anni or sono, quando l'imperatore Teodosio, piangendo in pubblico il suo peccato e implorando il perdono fra gemiti e lacrime, si è dovuto prostrare davanti a me, strisciare e baciarmi i piedi. L'anima mia giace nella polvere. Signore, confortatemi secondo la tua parola. Così implorava Teodosio, trascinandosi e strisciando ai miei piedi davanti alla gente ammutolita. Da quel giorno, imperator non supra ecclesiam, sed intra ecclesiam est. Da quel Natale ha fatto quello che io gli ho comandato in nome di Cristo. Ha promulgato tutti gli editti che io gli ho preparato e fra poco ne metterà un altro. Ha già ricevuto la mia lettera. Bisogna spezzare l'ultimo legame con il passato. E gira su se stesso come in una danza, e sfiora il pavimento e lentamente affonda il piede e calpesta la pietra fredda e poi solleva il capo e guarda in alto verso la flebile luce di un lampadario. Non vi resta più niente da proibire ormai, aggiunge sorpresa Ipazia. Dovete solo rendere esecutiva la distruzione dei templi a Roma, a Costantinopoli e in Africa e poi l'impero sarà interamente cristiano. No, Ipazia. Resta ancora un evento ed è un peccato. Se avessi provveduto prima, tuo fratello si sarebbe salvato, pensa. E accenna un sorriso. Le Olimpiadi? No, Ipazia, non solo le Olimpiadi, ma anche i misteri eleusini, i giochi pitici. La voce è piena di compiacimento. Il mondo dell'idolatria pagana è finito. Ora il comando è nelle mani di chi regge le anime. E protende le braccia in alto verso gli ultimi barlumi delle lucerne. Tremo per quello che sto ascoltando, soprattutto per il tono gioioso della voce di Ambrogio. Il volto di Pazzi è segnato dal dolore. Il vescovo tace, la fissa, incuriosito. Perché hai voluto vedermi, Ipazia? Lei solleva gli occhi umidi. Per guardare in faccia chi ha decretato di bruciare la biblioteca di Alessandria, che ha ucciso mio padre. La voce trema, si morde le labbra, è per provare a fermarti. Oh, non è più possibile, neanche se il tuo amico Scialim estraesse il pugnale che nasconde sotto l'ascella e mi uccidesse, e mi lancia un'occhiata benevola, perché ormai l'impero romano sta morendo, e questo lo sa anche la povera gente. I barbari premono alle frontiere, il glorioso esercito romano non esiste più. Per resistere ancora qualche lustro, l'impero deve sostituire gli standard di Roma con la croce di Cristo. Ma anche al di là delle frontiere c'è il caos. È tutto un mondo che sta per essere travolto dalla barbarie. L'impero romano sarà travolto. Ci saranno altri imperi, altre guerre. Ma se a capo di ogni re o imperatore metteremo Cristo, allora non ci sarà mai più caos. Ci sarà ordine. L'ordine cristiano. Ipazia. Occhi umidi, annuisce. Invece la verità è questa. Quando avete capito che i primi cristiani erano i primi ribelli che avevano avuto la forza e il coraggio di mettersi contro il sistema di vita di Roma, contro le guerre, contro il sistema che si fonda sullo sfruttamento degli schiavi, allora li avete massacrati, proibendo la diffusione della parola del loro profeta. Ma il grande stratega Costantino, uno come te, Ambrogio, egli punta un dito perentorio, accusatore. Ha organizzato il concilio di Nicea, il primo concilio, e ha preteso che i vescovi mettessero per iscritto che Cristo non era un uomo che aveva lottato per la liberazione degli oppressi, ma che era il figlio di Dio, e questo per strappargli la forza rivoluzionaria del suo messaggio, la sua umanità. E i vescovi ci hanno pensato un mese prima di accettare, e alla fine hanno ceduto. così sono stati riconosciuti dall'impero. Terre, proprietà, poteri giurisdizionali, immunità fiscali, denaro. E in questi 68 anni avete manipolato una religione pura, un messaggio rivoluzionario, per sottomettere tutto l'impero. La voce di Pazia è accorata, permeata di quel fuoco puro che scaturisce da una mente incontaminata. Una lettura della storia un po' troppo semplicistica per una filosofa del tuo valore, ribatté ironizzando il vescovo di Milano. Oh no, cerco di andare al cuore dei problemi. Ora capisco invece. Il tuo è un progetto per impadronirsi del mondo intero, a capo dei popoli, principi, re e imperatori, e a capo di principi, re e imperatori, papi e vescovi cristiani, fissa con decisione in volto Ambrogio. Ma questo vuol dire che tu sei esattamente come Teofilo, che tu non sei cristiano, tu usi il cristianesimo per il potere. Forse Eugenio, Arbogaste, Simmaco e Nicomaco non ce la faranno a fermarti, ma ci riuscirò io. Ambrogio ha ascoltato con estrema attenzione. Ora scruta la mia maestra con severità. Ti conoscevo dalle lettere di Teofilo e dalle parole di Agostino. La lettera di Simmaco ti presenta per come sei, un'incantevole, ingenua sognatrice, e affinché tu fossi totalmente sincera, dovevo esserlo anch'io. Serra le grosse labbra. Ipazia, sei troppo giovane per poter competere con me. Ti do un consiglio, visto che non intendi ritirarti in un convento di monache e dedicare la tua castità a Cristo, visto che intendi continuare a studiare matematica e astronomia, scriverò a Teofilo di lasciarti in pace. Solo se il tuo centro studi resterà con le attuali dimensioni, solo se casa tua sarà un rifugio per eccentrici perditempo e sognatori, solo così ci passerò sopra. E il tono di voce si smorza in un lamento dolce, melodioso. Ipazia lo fissa col mio stesso stupore dipinto sul volto. Anche lei deve essere rimasta sbalordita dalla dolcezza di questo tono, in netto contrasto con la durezza delle parole del vescovo. E pensare che ero venuta affinché tu mi aiutassi a rifondare il Museion di una volta. Speravo che tu potessi intercedere per me presso Teodosio, e scuote la testa incredula. Abolire le Olimpiadi, distruggere i templi, bruciare le biblioteche, proibire i nostri culti. Quindi non si tratta del fatto che il cristianesimo rappresenta la salvezza per l'impero romano pagano che si sta sbriciolando, ma esattamente il contrario. Manipolando Teodosio, convincendolo a promulgare tutti quegli editti, ricattandolo con la paura della dannazione eterna, tu stai sgretolando la nostra civiltà per sete di potere, per metterti al di sopra dell'imperatore, per vedere Teodosio strisciare i tuoi piedi. Atteggiamenti e termini da tragedia, teatrali. Molto più semplicemente dico che era ora di farla finita, di considerare la Chiesa e il cristianesimo come un'appendice del potere imperiale. Affinché in tutto l'impero regni l'ordine e la pace, il cristianesimo deve essere il faro e la guida di ogni creatura. E tutti devono inchinarsi al disegno di Dio, ma soltanto noi uomini di chiesa conosciamo questo disegno. Per questo anche l'imperatore deve seguire la nostra parola. E torna indietro di qualche passo nel punto dove aveva sfiorato e calpestato il pavimento come in una danza. L'imperatore deve essere al mio servizio per vegliare sui popoli, affinché abbraccino la croce di Cristo, per far sì che questa vita sia quanto più simile a quella eterna. E la voce vibra in una melodiosa risonanza di gioia. Ipazia trema per il freddo, anch'io vengo assalito da un profondo sgomento. Mi trovo dinanzi all'uomo che ha decretato la fine di un mondo appropriandosi di quel Cristo rivoluzionario di cui io mi sono innamorato. La mia maestra attende che il vescovo la raggiunga accanto al fonte battesimale. Perché mi lascerai vivere solo se il mio centro studi resterà piccolo? Perché, Ambrogio? E lo fissa col suo sguardo puro e innocente. Vuoi proprio sentirtelo dire? Tu lo sai, incantevole, ingenua sognatrice. L'eterna lotta, la ragione contro la religione, contro. Non potranno mai proseguire, camminare insieme, mai. È falso. Per 8, 9 secoli ad Atene, Antiochia, Efeso, Pergamo, Siracusa e soprattutto ad Alessandria i miei avi ci sono riusciti. Hanno indagato i misteri della natura, hanno studiato il creato con la ragione, senza mai offendere gli dèi, senza mai calpestare alcuna religione. Nel mio piccolo centro siamo pagani, come ci chiami tu, cristiani, ebrei, ariani, ma ci rispettiamo e siamo tutti protesi alla ricerca della verità nascosta nel mondo che è dentro di noi e in quello che è fuori di noi. Estrae le sue piccole mani dalle maniche della tunica, le protende verso il vescovo. Ragione e religione possono coesistere, camminare insieme, sostenersi e rispettarsi. I nostri 8 secoli, quelli dei nostri padri, quelli delle nostre madri, di Talete, Pitagora, Aristotele, Euclide, Tolomeo, Democrito, Ippocrate, Aristarco e altri 10, 100, 1000 uomini e donne che hanno vissuto la loro religiosità in libertà e armonia, pur continuando la loro ricerca filosofica e scientifica. Ebbene, proprio questi 8 secoli e questo esercito di giganti che ha cambiato il corso della storia umana sta a dimostrare che una coesistenza tra ragione e religione è possibile. E giunge le mani, esultanti ed imploranti allo stesso tempo. Ambrogio si stropiccia le grosse orecchie con le mani, sorridendo ironicamente, scuotendo il capo. Mia incantevole, ingenua sognatrice. Certo che è possibile, ma è pericoloso, perché non è detto che si possa sempre controllare questa unione tra religione e ragione. Finora questo matrimonio è avvenuto sempre nell'ambito di classi sociali colte, aristocratiche e elette. Il popolo di Alessandria per 7 secoli ha preferito lo stadio, le corse e i dadi alla biblioteca, alla Repubblica di Platone ha anteposto le commedie di Plauto, ma il rischio che creature ingenue come te possano portare codici e rotoli in mezzo al volgo è grande, perché voi vivete al di fuori del mondo, voi studiose e studiosi avanzate rettamente per tutta la vita, ma con la testa tra le nuvole e senza volerlo potreste seminare strane idee nel volgo. La lettera uccide, lo spirito invece vivifica. Vedi, Ipazia, quanto sono sincero? Se tu cominci a far funzionare la mente di tutti gli uomini e le donne, è il caos. Per gente come te e come me sarebbe finita, lo capisci? Pochi esseri umani posseggono l'uso dell'intelletto, della ragione, e solo a loro è demandato il destino dei popoli. Man mano che la tensione del suo discorso aumenta, l'armonia e la melodia della sua voce crescono in bellezza, in pause delicate, misurate da attore consumato. Ora riesco persino a prevederle. So quello che vai cercando, Ipazia, i trattati sulla teoria atomica del fenicio Moco, quelli sulla luce. Tu vuoi scoprire come nasce, di cosa è composta, come si propaga la luce. E se un giorno tu ci riuscissi, sono certo che oltre a Scialime e agli altri tuoi allievi e compagni di studi, saresti capace di farlo sapere anche alla gente di Alessandria e di Roma e di Atene e di Siracusa e di Milano, tutti. Ma la luce, se tu ne scopri il segreto e se questo segreto lo metti a disposizione della gente, apparterrà a tutti e non potrai mai più mettere a cavallo d'un raggio di luce un mistero, un messaggio di Dio, un messaggio che solo tu conosci, che solo a te Dio ha rivelato. Capisci? Capisci, ingenua creatura? In un raggio di luce è nascosta la creazione, il mistero della vita. Noi vescovi siamo dei buoni custodi dei segreti di Dio. Voi scienziati siete creature ingenue, ma pericolose. Dobbiamo tenervi sotto controllo, non possiamo lasciarvi liberi. Voi non sapete controllare la vostra ragione. Potreste seminare caos e rivoluzioni. Ecco perché Dio un giorno ha mandato suo figlio a morire sulla croce. Ed ecco perché dalla croce è nata la Chiesa e noi vescovi, perché nessuno faccia mai morire un raggio di luce. E si avvia, tronfio e pettoruto, verso l'uscita della cattedrale. Ipazia lo segue come risucchiata dai gorghi fatti intravedere da Ambrogio. È sconvolta, rossa in volto, respira a fatica, accenna a rispondergli, ma non ci riesce. A fianco, abbandoniamo l'umidità opprimente della chiesa, ma fuori troviamo decine di monaci che hanno circondato il vescovo, sussurri, invocazioni, tutti fissano il cielo limpido sopra di noi. Ambrogio ha proteso le mani. Alziamo il capo e il cuore prende a battermi all'impazzata. Lentamente il brillio delle stelle diluisce in un lucore agghiacciante, una luminosità bianca che dai regni oscuri dell'universo si allarga, ingrandisce, inghiottisce tutte le altre luci, esplode. È mare bianco di fuoco incandescente che ingigantisce, che divora il mondo. Sciabolate di luce gelida continuano a fuggire da quel centro dell'universo e piovono dal cielo, ma non riescono a illuminare la città a giorno. Stringo forte la mano della mia maestra. Anche lei trema. Che cos'è, Ipazia? Che cos'è questa luce? L'apocalisse? La fine del mondo? Avvolgo con una mano una sua guancia infuocata. La stringo alla mia spalla. Sento il suo cuore che sta scoppiando per l'emozione. No, Shalim. È luce fredda. È fredda perché giunge da molto lontano. Se fosse vicina come quella del sole, già saremmo morti tutti. È una stella che è esplosa. E lascia che la mia mano stringa il suo volto al mio cuore. Probabilmente stiamo assistendo alla morte di una stella, Shalim. È un mondo che ha concluso il suo ciclo vitale. Dobbiamo studiare la luce. Sono convinta che essa racchiude il segreto della vita. Oh, Shalim. Grazie perché mi stringi al tuo cuore. Le mie dita raccolgono le sue lacrime. Io tremo ancora per la paura. Il cielo continua a essere inondato dall'esplosione di bagliori obliqui, velenosi, cupi. Un rantolo distoglie la nostra attenzione. Ambrogio, bulbi degli occhi esorbitanti, è caduto in ginocchio. Continua a protendere le mani al cielo, ma ha schiuso le dita come a volersi proteggere. A ondate, vomita un mugghiante gorgoglio, un lamento aspro, sul volto una terribile smorfia, mentre le sue fauci, terrorizzate, eruttano un groviglio di lugubri discordanze.